in primo piano. Buona giornata e buona domenica a tutti da Mauro Meazza. Vediamo i temi in evidenza sulle prime pagine dei giornali di questa mattina. Naturalmente le discussioni sul TFR e sullo stop al TFR che è giunto ieri da Confindustria, dal presidente Squinzi di Confindustria, occupano ampio spazio nelle prime pagine dei giornali, anche perché questa potrebbe essere una delle misure più innovative, più importanti della prossima legge di stabilità. Allora, poiché la legge di stabilità andrà presentata entro il 15 ottobre, cioè di qui a poco, è comprensibile come le tensioni, il dibattito, la discussione attorno a questi temi occupino molto spazio. Ad esempio, Repubblica decide di dare a questa notizia il suo titolo principale: no di Confindustria, niente TFR in busta paga. E poi Lavoro, lite sulla fiducia. Il governo ha assicurato che non ci sarà intervento sul TFR in busta paga se sarà un peso per le imprese. E poi invece la complicata trattativa sulla riforma del lavoro con Renzi, che dice ai sindacati per la ripresa puntare sui contratti aziendali. Ecco, i sindacati perché il Corriere della Sera decide di aprire, di dare il suo titolo più importante a un sondaggio: sindacati bocciati dagli elettori del Partito Democratico. Come ricorderete, negli ultimi giorni ci sono stati degli scambi di battute anche pesanti tra il Presidente del Consiglio Matteo Renzi e i vertici dei sindacati. C'è stata l'accusa del Presidente del Consiglio di essere ai sindacati di essere troppo ideologici, legati all'ideologia. E il sondaggio che Nando Pagnoncelli propone questa mattina sul Corriere della Sera ci dice che la maggioranza degli elettori del Partito Democratico sembra preferire la linea del Presidente del Consiglio, che del Partito Democratico del resto è anche il segretario. A pagina 3 del Corriere della Sera: due elettori PD su 3 bocciano i sindacati, hanno preferito la politica al lavoro. La maggioranza degli intervistati ritiene che non rappresentino giovani e precari. Vi leggo qualche passaggio di questo articolo di Pagnoncelli che accompagna il suo sondaggio. Il primo tema inevitabile è relativo ai ceti che i sindacati rappresentano. Questo è un punto fortemente critico. Più di 2/3 degli italiani pensa infatti che i sindacati non siano più in grado di rappresentare giovani, precari, dipendenti delle piccole aziende, e che si siano ridotti, come in questi giorni si è detto da più parti, a rappresentare solo i garantiti, pensionati, dipendenti pubblici e di grandi aziende. Si tratta di una posizione che è fortemente condivisa dagli elettori del Partito Democratico, ma anche dai lavoratori dipendenti in genere, dove la percentuale di accordo con appunto questa posizione, i sindacati non rappresentativi dei precari, dei giovani, dei non garantiti in qualche modo, bene, la percentuale tra i lavoratori dipendenti che la pensa così è al 72% nel sondaggio che questa mattina viene presentato dal Corriere della Sera. Più convinti, tra l'altro, di questo risultato risultano proprio i dipendenti di aziende private, 75%, un po' meno i dipendenti pubblici. E poi l'idea che in questi anni i sindacati abbiano comunque consentito condizioni migliori ai lavoratori prevale, dice Pagnoncelli, ma prevale di stretta misura. Il 51% si dichiara d'accordo, il 45% non lo è. Ora, è chiaro che i sondaggi naturalmente non sono la pretesa di rappresentare puntualmente tutta la mappa della società italiana, però il sentire in qualche modo diffuso che vogliono cercare di intercettare, ebbene, questo sentire diffuso sembra più vicino appunto alle posizioni portate avanti dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi piuttosto che a quello segnalato dai sindacati. Restiamo sul tema del lavoro, perché è il titolo principale per La Stampa, per il quotidiano di Torino. Articolo 18: Renzi vuole l'intesa per il vertice UE. L'obiettivo è un testo prima di mercoledì. Ricorso al giudice solo in casi limite, questa l'indicazione che sembra arrivare da ultimo dal Presidente del Consiglio. Allora, stiamo discutendo oramai da settimane appunto di come riscrivere questo articolo 18 della legge del 1970, lo Statuto dei Lavoratori, articolo 18 sul reintegro, che si ritiene ancora costituisca un retaggio del passato. Naturalmente da altre parti invece si pensa che sia una sorta di baluardo non trattabile, non rinunciabile per tutelare la tranquillità, la sicurezza, la dignità del lavoratore. Ebbene, su questo articolo 18 Renzi vuole assolutamente accelerare, perché mercoledì ci sarà a Milano un importante vertice UE convocato proprio da Matteo Renzi, dall'Italia, per portare avanti delle politiche attive sul lavoro, degli investimenti, per chiamare investimenti europei, per far ripartire l'occupazione. Allora vuole Renzi presentarsi con una intesa governativa, un'intesa in ambito parlamentare, scusate, un'intesa parlamentare, per avere appunto qualche cosa da portare davanti ai partner europei. Infatti leggiamo appunto da Alessandro Barbera sulla Stampa: l'aveva preannunciato giovedì agli investitori italiani della Citi, un primo risultato arriverà entro una settimana. Matteo Renzi ha fretta, il procedere della riforma in discussione al Senato è la strada maestra per ottenere flessibilità di bilancio da parte di Bruxelles. La manovra preparata da Palazzo Chigi al Tesoro vale 22 miliardi, metà dei quali arriveranno da un aumento del deficit. Il rischio concreto a fine mese è la bocciatura del testo, che a quel punto dovrebbe essere riscritto, come probabilmente accadrà alla Francia. La via d'uscita è dimostrare che quel deficit servirà anche a finanziare cambiamenti che possono accrescere il potenziale di crescita dell'economia italiana. Per Bruxelles la riforma dell'articolo 18 del sistema di ammortizzatori sociali è uno di questi. I numeri, continua Alessandro Barbera sulla Stampa, raccontano una verità inattaccabile: i rapporti di lavoro attivati nel primo trimestre di quest'anno sono stati per il 17% a tempo indeterminato, per il 66 a tempo determinato. Quella tutela è ormai limitata, la tutela dell'articolo 18, che appunto si riferisce al tempo indeterminato, ma è solo, come ci riferisce, come ci ricorda Barbera, il 17% dei nuovi contratti. Quindi quella tutela dell'articolo 18 è ormai limitata a meno di 2 lavoratori su 10, quasi tutti di grandi aziende. E poi appunto il ricordo che mercoledì prossimo a Milano ci sarà questo vertice dei capi di Stato dedicato al lavoro, e Renzi per primo ha voluto la conferma di questo vertice. Il giorno prima l'aula del Senato riprende la discussione, il governo cerca di ottenere subito un risultato così da portarlo in dote al vertice. E allora l'articolo della Stampa incrocia, diciamo, due dei temi che saranno caldi, molto caldi, da domani nella prossima settimana, e cioè appunto l'intreccio tra la riforma del lavoro, il superamento tra l'altro dell'articolo 18, ma insomma l'articolo 18 è poi solo una parte di una riforma molto più articolata, molto più complessa, che andrà ad interessare tutto il meccanismo delle regole del mercato del lavoro in Italia, e dall'altra parte la legge di stabilità. Che ci dobbiamo aspettare dalla legge di stabilità? Ecco, probabilmente ci sarà una conferma, questa è una buona notizia che apprendiamo da diversi quotidiani, ci sarà una conferma per quanto riguarda il bonus sulle ristrutturazioni, quelli che abbiamo imparato a chiamare con le ultime percentuali del 50 e del 65%. Questi due bonus, appunto, questi sconti del fisco per chi ristruttura casa, sono da confermare, così appunto annunciato il ministro Lupi, anche se non è escluso che le percentuali, appunto, che abbiamo imparato a conoscere, 65 e 50%, siano poi ridotte, siano poi limate in qualche modo, per mantenere comunque lo sconto, ma per evitare un esborso eccessivo per lo Stato. Il Corriere della Sera, nelle sue pagine interne, ci dice che le tasse possibili della manovra, è un po' una provocazione, perché sapete che il Premier ha detto più volte che non ci saranno nuove tasse, potrebbero riguardare IVA e ticket sanitari. Lupi annuncia il taglio dello sconto sulle ristrutturazioni edilizie, nel mirino ci sono agevolazioni e successioni. Questo, ricorderete, era stato già segnalato anche dal nostro giornale, dal Sole 24 Ore, un aumento degli introiti dalle tasse di successione, riducendo quella franchigia, cioè la parte su cui oggi non si pagano imposte. Il nodo delle coperture, scrive il Corriere della Sera, è l'impegno del governo con l'Europa per non aumentare la pressione fiscale. In primo piano. Bentornati, ancora una buona domenica da Mauro Meazza, grazie e buona domenica naturalmente anche a Peter Bescapè questa mattina in regia. Restiamo sulle questioni economiche, vi dicevo nella prima parte di questa rassegna stampa l'avvicinarsi della legge di stabilità, entro il 15 ottobre andrà presentata, soprattutto andrà anche mostrata a Bruxelles per convincerli della bontà della nostra tenuta dei conti. Ebbene, l'avvicinarsi alla legge di stabilità moltiplica le occasioni di scontro e poi naturalmente c'è sempre il confronto molto aspro, molto duro sulla riforma del lavoro che attualmente è in discussione al Senato, confronto che si è focalizzato, si è polarizzato attorno soprattutto all'articolo 18, ma lo ricordiamo ancora una volta, in realtà questa riforma ha un respiro decisamente più ampio, riguarda tutta una serie di innovazioni per le regole sul lavoro nel nostro Paese. Tiene botta, tiene campo sulle prime pagine di questa mattina la vicenda del TFR in busta paga. Allora, innanzitutto vorrei ricordare che si tratta non di una norma, non c'è niente di scritto, è stata una idea, una cosa, una ipotesi buttata lì in qualche modo dal governo, è un'ipotesi che il Sole 24 Ore tra l'altro ha raccolto per primo, ha presentato per primo, come anche l'idea, l'ipotesi questa sì un po' più probabilmente fondata di un aumento delle imposte di successione, non necessariamente un aumento ma insomma una riduzione della franchigia e quindi poi il gettito aumenta. Il TFR in busta paga è appunto un'ipotesi tecnica di cui si sarebbe discusso tra tecnici appunto nei ministeri. Non è stato ancora formalmente scritto nulla in materia. Bene, però per essere una cosa su cui non c'è ancora niente di scritto, non c'è ancora una formulazione, probabilmente ha già vinto il premio della norma più contestata. L'altolà di Confindustria ieri, ecco quanto guadagnerebbe lo Stato, dice 2 miliardi di tasse dal TFR in busta paga, e questo è il titolo scelto dal Secolo XIX, che esordisce in prima pagina proprio ricordando così giornata no, quella di ieri, per i fautori del TFR, il trattamento di fine rapporto in busta paga. Confindustria ha affossato l'idea, dalla parte politica aumenta la cautela. L'unico che non arretra è il Premier Renzi. Il presidente di Industrialis Giorgio Squinzi sostiene che il TFR anticipato sarebbe solo un grosso regalo al fisco. In effetti, secondo i calcoli della UIL, quindi diciamo andiamo da una parte sociale all'altra, effettivamente il TFR anticipato farebbe guadagnare un paio di miliardi al fisco. Squinzi insiste invece sulla riforma del lavoro e in una intervista al Secolo XIX il sottosegretario Bobba annuncia una nuova ipotesi: ridurre orari e paghe ai lavoratori anziani per assumere più giovani, una sorta di staffetta. Ricorderete, si era parlato qualche anno fa di una staffetta degli anziani che cedevano il posto ai giovani, qui la staffetta invece avviene tra le retribuzioni, una riduzione delle retribuzioni dei lavoratori più anziani per favorire i lavoratori più giovani. È un'altra delle ipotesi appunto che avanzano in vista della scrittura della legge di stabilità. Restiamo sul TFR, allora andiamo al Sole 24 Ore. Il titolo principale del Sole 24 Ore però non è sul TFR, pur essendo dedicato appunto alle posizioni espresse ieri dal presidente degli industriali Squinzi: il governo non ceda sull'articolo 18. Questa la titolazione principale oggi sul nostro giornale. Il presidente Confindustria dice a Renzi: deve esserci un luogo in cui ci si guarda in faccia e si decide. Squinzi ha bocciato l'ipotesi del TFR in busta paga, sarebbe un regalo al fisco. E poi ha incalzato il Premier. Deve esserci un luogo in cui si guarda in faccia, ci si guarda in faccia e si decide. Il vice ministro Calenda, di cui riferiamo oggi alla pagina 3 del nostro giornale del Sole 24 Ore, ha portato avanti appunto a Napoli una posizione un po' più di trattativa, perché dice: se ci sarà qualsiasi peso per le PMI, il governo non effettuerà questa misura del TFR, del trattamento di fine rapporto, trasferito direttamente in busta paga per i lavoratori. Se dovesse essere indispensabile toccare la liquidità delle aziende, se ci dovesse essere un qualsiasi impatto negativo dal credito al costo dei finanziamenti, il governo non lo farà, perché è consapevole che il settore industriale traina la ripresa e quindi va aiutato e supportato. Come sapete, il trattamento di fine rapporto costituisce anche una forma di liquidità per le aziende, e in questo momento la liquidità è un gravissimo problema per le nostre imprese. Infatti, sfogliando proprio il Sole 24 Ore di questa mattina, una analisi, una ricostruzione di Moria Longo ci segnala che il credit crunch, cioè il blocco del credito, la difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese e poi direi anche dei cittadini comuni, ha fino adesso presentato un conto da 90 miliardi di euro. Allora, per capire le proporzioni, la legge di stabilità di cui si sta tracciando ora l'impianto dovrebbe avere un impatto da 20-22 miliardi più o meno. Bene, il credit crunch per adesso è costato alle nostre imprese 90 miliardi di minori erogazioni, cioè di minore credito. Ma come spiega Moria Longo nel suo articolo che trovate oggi a pagina 5 del Sole 24 Ore, il vuoto complessivo da colmare è potenzialmente di quasi 300 miliardi di euro, perché se si somma il credito bancario che dal 2011 è venuto meno alle imprese italiane, 89,8 miliardi, ecco i 90 miliardi di cui si diceva, secondo le stime di RBS, e il capitale, se a questi 90 miliardi si somma il capitale che servirebbe per portare la solidità e la leva finanziaria delle nostre imprese sui livelli europei, servirebbero 200 miliardi per questo, si arriva a 289 miliardi. Le imprese italiane, spiega Moria Longo, soffrono infatti per il credit crunch, ma ancora di più per la mancanza di capitale, e questo frena la loro capacità di investire e frena lo sviluppo dell'intero paese. Tra l'altro, un grafico che accompagna l'articolo di Moria Longo oggi sul Sole 24 Ore evidenzia proprio l'andamento nella concessione del credito alle imprese, e dal dicembre 2011 fino a luglio scorso ci sono delle piccole risalite qua e là nel febbraio del 2014, in febbraio di quest'anno, e poi ancora tra giugno e luglio, ma questo saldo, che complessivamente dall'inizio del 2014 è positivo, non riesce a compensare l'emorragia che è stata subita dal sistema produttivo nel biennio precedente. Il grafico è evidente, è molto chiaro nella sua semplicità rispetto alle erogazioni soltanto di due anni, tre anni fa. Siamo direi precipitati all'ingiù, la curva è in realtà una linea retta che punta decisamente in basso. Ma per tutto questo, per i particolari, l'articolo di Moria Longo è anche molto dettagliato, spiega una serie di indicazioni anche che possono venire dalle mosse della Banca Centrale Europea. Vi rimando alla lettura del Sole 24 Ore, da dove traggo un'ultima segnalazione, perché vi ho detto di una possibile conferma dell'ecobonus nella legge di stabilità, conferma dell'ecobonus nel 2015. Ci informano Eugenio Bruno e Marco Mobili oggi che il ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi ha ricordato che questi due bonus, cioè quello edilizio e quello energetico, hanno messo in moto 29-30 miliardi circa. Sulla conferma delle percentuali, cioè ci saranno ancora proprio del 65-50%, dipenderà tutto dalle risorse che si riusciranno a recuperare con la legge di stabilità. E poi, per il contrasto all'evasione, ma lo leggevamo già nei giorni scorsi, ci sarà sarebbe allo studio una riforma dell'IVA nei confronti della pubblica amministrazione con un meccanismo di inversione di versamento, si chiama in gergo IVA reverse charge, che dovrebbe garantire un maggiore riparo dall'evasione, dai comportamenti illeciti in materia di IVA. Vediamo un'altra invece dal Fatto Quotidiano, apprendiamo come sta andando un'altra delle novità varate negli ultimi anni, è andata a regime proprio di recente, cioè la possibilità di dotarsi del POS, del bancomat, per consentire di effettuare pagamenti con il bancomat con moneta elettronica sopra i 30 euro quando il cliente lo richiede. Un obbligo che con questo obbligo in realtà si è chiarito che non c'è di fatto un obbligo perché non c'è una sanzione, e quindi una cosa che non è sanzionata poi difficilmente riesce a diventare un obbligo. Allora, il Fatto Quotidiano, Alessio Schiesari per la precisione, è andato a vedere come questa diffusione del POS, della macchinetta per il bancomat, è riuscita a fare breccia specialmente nelle bancarelle degli ambulanti, nei mercati, e ne trae una considerazione poco confortante, se vogliamo, per questa novità, perché dice: il POS sarà pure diventato obbligatorio, ma girando per il mercato dell'Esquilino di Roma non sembra essersene accorto nessuno. Su oltre 130 banchi solo 4 su 130 dispongono della macchinetta che permette di pagare con bancomat e carte di credito. Tra questi c'è Mustafa, un macellaio egiziano 42enne, dice: io sì ce l'ho, però ce l'ho perché quando ho chiesto un prestito la banca mi ha imposto di installarlo. Estrae poi dal cassetto una fattura e dice: questa mi è arrivata ieri, devo pagare 200 euro per sostituire il POS, appunto la macchinetta che consente di pagare col bancomat, che si era rotto. Per me è solo una spesa. E poco distante, scrive ancora Schiesari, due finanzieri e un poliziotto stanno multando un pescivendolo bengalese. Dicono: se facciamo rispettare l'obbligo del POS, scoppia a ridere la gente, ma qui dentro c'è gente che non ha neanche il registratore di cassa, nemmeno fuori, lo interrompe il finanziere, perché come faccio io a fare un verbale se manca poi la sanzione? E qui ricorda Schiesaro appunto che l'obbligo di dotarsi del POS è un obbligo un po' per modo di dire, perché appunto non è sanzionato. Ma il tema vero, il problema è che sono i costi che vengono a gravare su chi deve dotarsi del POS, e tanto è vero che a luglio c'è stato, e lo ricorda Schiesaro, un tavolo aperto con Banca d'Italia, con l'Associazione Bancaria Italiana, il Ministero del Tesoro, il Consorzio Bancomat. L'obiettivo è appunto stabilire per legge un tetto alle commissioni e rendere detraibili una parte delle spese che sono legate alla gestione degli apparecchi. Però ancora non si è giunti a un accordo. In primo piano. Bentornati a questa ultima parte della nostra rassegna stampa. I titoli, i temi principali che sono oggi sui giornali, che sono oggi in evidenza sui giornali, ma in realtà vi voglio segnalare un titolo che non è molto in evidenza, anche se quasi tutti i giornali lo presentano. Schettino, il comandante appunto della Concordia, e come dire, colui che viene ritenuto anche il maggiore responsabile del sciagurato inchino, della sciagurata manovra che poi ha portato alla tragedia anche all'isola del Giglio, con anche la perdita di vite umane, ha vinto una sua piccola battaglia legale. Lo ricorda tra gli altri giornali anche Il Secolo XIX, naturalmente, come si può immaginare, giornale genovese, quindi attento anche alle vicende che riguardano i cantieri e l'industria navale. Dice: Francesco Schettino vince un processo nella vicenda della Costa Concordia. Potrebbe essere il primo successo legale tra i vari procedimenti che sta sostenendo. In una causa civile ha ottenuto che la compagnia Costa Crociere gli rimborsi i 26.000 euro da lui anticipati al suo avvocato e suo primo difensore nella vicenda del naufragio del Giglio, per spese e onorario. La causa, segnalano anche alcuni media, è stata decisa con decreto esecutivo dal Tribunale di Torre Annunziata. Il Tribunale ha ricordato che nei infatti tra armatore e comandanti è prevista l'assistenza legale in caso di contenziosi e procedimenti, però sono esclusi i casi di dolo e colpa grave. Appellandosi a questi ultimi aspetti, Costa Crociere aveva risposto no alla richiesta di Schettino di pagargli il primo avvocato difensore. La querela è andata avanti a lungo sino alla decisione di ieri. Quindi una vittoria legale, in qualche modo, in una causa civile da parte del comandante. Naturalmente poi restano invece tutte le vicende, soprattutto penali, che sono legate al naufragio all'isola del Giglio. E poi resto sul secolo XIX ancora per un'altra notizia, questa volta richiamata in prima pagina. Il fisco ama i contribuenti viziosi, scrive Marco Menduni, perché vedendo appunto una conclusione, un report che è stato presentato sull'andamento dei giochi, cioè videopoker, soprattutto la diffusione delle slot machine in Italia, che lo ricordiamo hanno avuto un'impennata fortissima, anche se negli ultimi mesi c'è stato qualche rallentamento. Ebbene, la Commissione Bilancio della Camera, analizzando le coperture dei provvedimenti che potrebbero essere introdotti, dice appunto che c'è innanzitutto la contraddizione tra l'idea di avere una pubblicità molto severa, molto ammonitrice sulle conseguenze nefaste del gioco d'azzardo, ma dall'altra la necessità di monetizzare appunto grazie alle entrate che lo Stato riesce a garantirsi con il gioco d'azzardo. E poi c'è, dice Menduni, scrive Menduni sul secolo XIX, si arriva a un punto importante: i divieti ipotizzati riguardanti il divieto totale di fumo e di mescita di alcolici nei mini casinò di quartiere. Qui il ragionamento che viene espresso dal direttore degli affari legali dell'associazione dell'AMS, praticamente dei monopoli, raggiunge e dice vette inarrivabili, perché dice attira l'attenzione sui previsti divieti di alcol e spiega è di comune conoscenza, ovvero di facile intuizione, che la pratica di alcune attività ludiche o a componente ludica o comunque implicante individuale soddisfazione è suscettibile di essere incisa, comunque fortemente disturbata, da condizionamenti della condotta propria del soggetto che la pratica. Se non avete capito, è quello di cui si preoccupa anche l'estensore dell'articolo, cioè Menduni, che dice non si capisce un granché, però noi ci proviamo, chi gioca non vuole rotture di scatole, quindi niente impedimenti, niente divieti. La pratica del gioco da sempre per taluno, e ancora il documento, convive con il soddisfacimento di altri desideri quali fumo e assunzione di bevande non analcoliche. Conclusione: in meno andrebbero a giocare, le entrate del fisco calerebbero ancora. E tra l'altro, essendo anche alcol e tabacco legati a introiti per lo Stato, è evidente che sarebbe una sorta di colpo triplo quasi alle possibilità di introiti, anche se di introiti dal vizio e da cose che sicuramente non fanno bene qui si tratta. Tra le ultime segnalazioni vi voglio parlare di un articolo che trovate su Repubblica oggi, questa mattina, in edicola, ed è il ritorno del facchino in stazione. Signore, a me la valigia, torna il facchino in livrea, ma si prenota stavolta con una app. Scrive Ernesto Ferrara appunto che da domani ci saranno dei porter, dei facchini ufficiali a Roma, Firenze e Milano, così fermeremo l'assalto degli abusivi nelle stazioni. Già, perché è esperienza comune di chi è capitato nelle grandi stazioni, specialmente appunto Roma, Firenze, Milano, di essere, come dire, invitati a cedere i bagagli a qualche aiutante abusivo, il quale poi vuole essere in realtà remunerato per questo, una sorta di una forma di abusivismo che talvolta è anche fastidiosa per l'insistenza che questi personaggi mettono in atto, soprattutto nei confronti di magari passeggeri non più giovanissimi o costretti da valigie molto ingombranti. E allora scrive Ernesto Ferrara che c'è ancora bisogno del caro vecchio facchino, con tanto di abito, cappello e guanti, tutto blu con risvolti verdi. Siccome siamo nell'era digitale, presto chi vorrà potrà addirittura prenotarsi il facchino con un'app, sia che si abbia bisogno di portare il valigione dal treno all'albergo, sia che si voglia direttamente il facchino a casa, a ritirare la sera prima i bagagli per poi trovarseli comodamente l'indomani già montati in carrozza. È una rivoluzione, leggo da Repubblica sempre, dal sapore vintage. quella che scatta da domani in 3 stazioni italiane: Roma Termini, Firenze Santa Maria Novella, Milano Centrale. Tornano i mitici portantini, scomparsi da almeno 10 anni dagli scali ferroviari, esempi di un lavoro antico che si direbbe rottamato dalla modernità. Eppure, giura il nuovo amministratore delegato di grandi stazioni Paolo Gallo, sempre più richiesto dagli utenti. Del resto, un mercato del facchinaggio abusivo esiste e prolifica in decine di stazioni italiane, spiega la società che gestisce gli scali. Vuoi per la crisi, vuoi per la presenza quasi stanziale di molestatori e furbastri che avvicinano i passeggeri alle macchinette dei biglietti oppure ai binari e, con la scusa del trasporto bagagli, provano a estorcere soldi. Con la Polfer, la polizia ferroviaria, e i ferrovieri è una guerra quotidiana. A Firenze va un po' meglio solo da quando hanno messo le transenne alla testa dei binari, sorvegliate da personale FS, e ai vigilantes a presidiare l'area delle macchinette automatiche, anche quella transennata. E poi dice: stiamo studiando, dice Gallo, con le soprintendenze, tornelli o barriere fisse di accesso ai binari. Nel frattempo, però, è il portantino ufficiale delle ferrovie a fare il suo debutto, anche se nell'era digitale fa parecchio effetto immaginarsi questi portantini in livrea che si avvicinano ai viaggiatori come sull'Orient Express. Però dice sarà un servizio moderno ed efficiente e in grado di ridurre i problemi legati alla presenza di abusivi. Tutto questo da domani in 3 grandi stazioni: Roma Termini, Firenze Santa Maria Novella, Milano Centrale. Il ritorno appunto del portantino, tantino del facchino che aiuta a portare i bagagli. Ho tempo ancora, un minuto circa, per segnalarvi un'ultima notizia. Allora vi rimando al Messaggero. Sicilia, tetto agli stipendi. La regione Sicilia decide, come già anche la Camera, di ridurre gli stipendi dei suoi dipendenti ai commessi, 117.000 euro. Ma alla fine della riforma, ci informa il Messaggero, uno stenografo siciliano prenderà 204.000 euro l'anno. Lordi, viene da precisare, però non sono neanche così pochi. Al Senato la stessa mansione viene retribuita con 172.000. I risparmi non sono mai tutti uguali. E questa è l'ultima notizia che vi segnalo. Ancora una buona domenica a tutti da Mauro Meazza.